m'hanno lasciato solo in mezzo al campo. Vorrei gridare aiuto, sto morendo. Tra il rosso dei papaveri e di grigio e la pietà festosa degli uccelli, ma d'improvviso appare un cavallo bianco, è il mio delirio che mi fa sognare. Io salto in sella e andiamo a galoppare, laggiù dove mai più ritornerò. Corri, cavallo mio, lungo i sentieri della mia nostalgia. Corri, perché laggiù mi puoi portare solamente tu. Guarda, lo vedi il mare, lasciami lì vicino a quel casolare. Guarda, l'amore mio, com'è carina in questa fotografia. L'ho accarezzata troppo con le mie dita, per questo adesso sei un po' sgualcita, ma di presenza è più bella ancora. Casette bianche sulla collina, prendi quella stradina che porta proprio in fondo a casa mia. Vedo mio padre che sta lavorando, mia madre in casa che sta pregando, cucina e piange pensando a me. M'hanno lasciato solo in mezzo al campo, i miei compagni mi hanno dimenticato, il mio cavallo bianco se n'è andato, è troppo stanco ormai per galoppare, il cielo intorno a me già sta girando, ho gli occhi aperti ma non vedo più, mentre la bocca mia sta sorridendo, ed il perché soltanto Dio lo sa.